America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Musica, social events, grandi sfilate di moda, la Fashion Week si è chiusa ieri a New York, è stata una settimana, devo dire, entusiasmante per la città, avvolta da questa nuvola della moda, modelle, creatori di moda, eventi, feste, parties. Pensate, ogni anno la Fashion Week porta un giro d'affari di 865 milioni di dollari tra alberghi, feste, ristoranti e chi più ne ha più ne metta, 578 mila visitatori che arrivano da fuori New York. Insomma, il settore della moda è uno di quelli che continua a trainare, la gente si deve vestire, si vuole vestire bene e soltanto a New York, pensate, occupa il settore della moda 165 mila persone, il 5-6% degli abitanti, totale stipendi 9 miliardi di dollari, 1,7 miliardi di dollari di introiti fiscali. E proprio grazie a questa Fashion Week, dal 2010 al 2025, si stima che il numero della forza lavoro impiegata nei negozi a New York aumenterà del 17%. Well, this collection is called Rendezvous, and a rendezvous is a meeting with expectation and mystery. It's all about seduction, it's all about volupty. Diane von Furstenberg, per esempio, l'avete sentita, parla della sua collezione, che mi riporta immediatamente, per quello che dice, ve lo dirò fra un attimo, alla memoria questa canzone italiana. Ho sbagliato tante volte, so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Perché le dichiarazioni da Jan von Furstenberg mi ricordano l'appuntamento della Vanoni, grande, grande canzone? Perché questa collezione si chiama Rendezvous, l'appuntamento, appunto, nel senso di un incontro, dice la von Furstenberg, che si attende con ansia e che è denso di mistero. Parla di seduzione e sensualità, dell'essere donna, dell'amare la propria femminilità, dell'essere sexy, ma con la possibilità di scegliere se scoprirsi o meno, insomma, essere la donna che si vuole essere. Ma la Fashion Week a New York è moda naturalmente, ma non è soltanto moda, ma ha colpito molto un evento al quale sono andato nella residenza del nostro ambasciatore Cesare Ragaglini, rappresentante permanente dell'Italia alle Nazioni Unite, che era un evento benefico che lega, pensate, la moda alle Nazioni Unite e a un progetto di aiuti, di sviluppi per cercare di aiutare, di addestrare dei giovani africani ed avvicinarli al mondo della moda. La protagonista di questa serata era Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia, direttore, devo dire, di molte altre riviste, perché Vogue Italia, Casa Vogue, Beauty, Uomo Vogue, Vogue Gioielli, insomma, è una nostra icona, una grande icona della moda italiana, che è stata nominata ambasciatore, Goodwill Ambassador di questo progetto. E dunque ho con me in linea Franca Sozzani. Buongiorno Franca, come stai? Bene, grazie, bene. Dunque Franca, intanto complimenti, perché insomma questa idea di legare la moda a un progetto umanitario, un progetto filantropico, lo trovo straordinariamente interessante, ma vuoi raccontarci meglio come funziona? Cosa fate esattamente? Dunque, quello esattamente è un progetto, diciamo, ad ampio respiro, nel senso che uno dei, diciamo, millennium goals che si è prefissato Ban Ki-moon per i prossimi anni è quello proprio di dare più potere alle donne, e quello lo puoi dare solo dandogli un lavoro. E poi l'altro ovviamente è l'educazione, la salute e altro. Diciamo che non ci si può occupare di tutto, quindi attraverso la moda ho pensato che si può veramente insegnare a delle donne o anche dei giovani, creare come dei piccoli laboratori che già esistono peraltro, per cui io nel mio viaggio in Ghana, in Nigeria, li ho già trovati, magari 6 persone, 8 persone, 10 persone, ingrandirli in maniera da portarli a almeno una cinquantina, sessantina di persone, che mentre imparano possono anche comunque già produrre e quindi guadagnare e quindi avere un salario che sia anche equiparato al tenore di vita del paese. E noi cerchiamo anche di aumentare il lavoro lì e nello stesso tempo creare una distribuzione. Ecco Franca, vogliamo fare anche un piccolo bilancio di come sono andate, di come è andata questa settimana della moda? Tra l'altro la settimana prossima ci saranno sfilate a Milano. Che umore hai trovato? L'ho trovata più vivace in New York. C'è anche una tendenza anche all'eleganza, cosa che qui era più, diciamo, sport. L'America era più sportiva che non elegante. Quindi anche nuovi nomi, che hanno un'evoluzione anche nel loro modo di esprimersi, nel modo di fare moda. Dici un paio di nomi nuovi che secondo te che t'hanno colpito. Prabal Gurung, che è un ragazzo indonesiano che fa veramente una collezione molto bella e quindi è uno da tenere sott'occhio, così come furono all'inizio le sorelle Rodarte o come fu Provenza Schuller. C'è una nuova promessa, è già la seconda collezione, è già molto bella, è ancora più raffinata della prima e quindi... Ecco, un'ultima cosa, una curiosità, un dettaglio, un pettegolezzo, un qualche cosa che ti ha colpito in questo tuo periodo, in questi giorni che hai passato a New York? Ripeto, New York che si veniva un po' più così, perché era New York, oggi si comincia a guardare anche con un occhio alla moda. Questo è secondo me una piccola svolta che potrebbe dare anche una svolta invece non indifferente a quello che è di nuovo il mercato del tessile qui. Benissimo, ultima cosa invece Milano, la settimana prossima ci sono un po' di sfilate, sarà un'atmosfera altrettanto gagliarda come quella che hai trovato qui a New York? Senti, io penso che a Milano noi abbiamo il più alto concentrato di nomi importanti al mondo, perché questo non ce lo può negare nessuno, non possiamo batterci per dire che Milano è la città più bella del mondo, no, però possiamo batterci per dire che non c'è nessun paese al mondo che abbia un così alto concentrato di nomi famosi, importanti nel mondo. Più abbiamo le aziende, che sono altrettanto importanti, perché oggi queste aziende importanti tipo Max Mara piuttosto che Della Valle, Diesel, sono aziende che fanno anche moda, che quindi non sono aziende che producono, quindi sono aziende di moda, ma che fanno una moda di un certo tipo. E quindi non è la moda del designer, quella che magari vuole più scioccare il giornalista, però sono delle realtà enormi e in più abbiamo tutti i grandi stilisti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Chiudiamo questa settimana dedicata ai Grammy Awards con un altro dei brani premiati, grandi brani premiati nella categoria miglior duetto. Non potevamo che chiudere con Tony Bennett, grande mito, e Amy Winehouse, Body and Soul. You know I'm yours for just a taking. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.